La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme alla Rosa Purpurea, ben ritrovati alla nostra ora di cinema. Franco D'Assisti in studio per questa oretta da passare insieme con i consigli di visione per il cinema sul grande schermo, soprattutto, e poi anche per le visioni domestiche. È una settimana particolare, la distribuzione italiana fa di tutto per sbizzarrirsi, anche un pochino per suicidarsi, perché settimana in cui esce un film italiano o anche niente, questa settimana ne escono 5 di titoli nostrani e 11 in totale. Insomma, bisognerebbe avere il dono della ubiquità e anche qualcosa di più per vederli tutti. Noi, come sempre, abbiamo fatto le nostre scelte, sentiamole nei titoli di testa. La Terra del futuro, un'invasione aliena respinta e un pianeta perduto. Due guardiani pronti a spiccare il volo verso un nuovo orizzonte. Ma le cose non sono mai come sembrano e il passato presenta sempre il conto. Tom Cruise, protagonista di Oblivion, fantascienza ad alto budget sugli schermi italiani. Un paese dove non muore mai nessuno. Un imprenditore in crisi in cerca dell'idea giusta. Aprire lì un'impresa di pompe funebri. Ma i vecchietti locali sono tenaci. Enrico Brignano torna al cinema con Ci vediamo domani, commedia agrodolce che diventa un apologo della terza età. La vita di Michele è sconvolta in una notte, quando soccorre un uomo travolto da un'auto e si trova catapultato sul banco degli imputati. Il rapporto tra uomo e giustizia e la ricerca della verità sono gli ingredienti de La città ideale, esordio alla regia di Luigi Locascio. Ascoltiamo l'attore dei 100 passi alla Rosa Purpurea. Il testimone di una strage nei sobborghi di Stoccolma è in coma e non può essere interrogato con metodi convenzionali. L'ispettore Linna ci proverà con l'ipnosi per evitare che il misterioso assassino possa annientare tutta la famiglia. È L'ipnotista, il film che segna il ritorno in Svezia del regista di Chocolat, Lasse Hallström. E queste sono le note della colonna sonora della Città Ideale, il film con cui vogliamo aprire questo nostro programma, la Rosa Purpurea di questa settimana, e anche il nostro consiglio, come abbiamo scritto sulla nostra pagina Facebook già giovedì scorso, il nostro consiglio fra tutti i titoli che escono in questo weekend. Ecco, secondo me, con 10 euro in mano, il primo da vedere è questo. Ed è l'esordio alla regia di un attore che è molto popolare, come Luigi Locascio, lo ricorderete nei 100 passi, ma poi in tantissimi altri film, che esordisce dietro la macchina da presa alla regia con questa storia strana, con tante tinte noir, quasi thriller, di thriller psicologico, con un'atmosfera molto kafkiana alle spalle, e con la storia di un ecologista d'oltranza. Si chiama Michele Grassadoni, interpretato dallo stesso Locascio, che sta compiendo un esperimento, quello di vivere un anno senza acqua corrente e senza luce elettrica, senza corrente elettrica. È un oltranzista di se stesso e del mondo, questo Michele Grassadonia. Una sera incappa in uno di quegli episodi in cui può capitare di incappare, ovvero andando per strada in una notte piovosa. Tutto il film si svolge a Siena, che viene appunto definita la città ideale, come nel cinema, anche se forse questo si riferisce più alla provincia italiana. Dicevo, una sera in macchina, notte piovosa, non si vede nulla, scorge un corpo, una massa scura sul ciglio della strada. Ritiene possa trattarsi forse di un animale investito piuttosto che di un sacco della spazzatura. Torna indietro, vede che si tratta di un uomo, lo tocca, cerca di soccorrerlo, vede che non c'è molto da fare da solo, chiama il 118 prima e la polizia dopo. Ebbene, all'arrivo della polizia si rende subito conto che le carte in tavola sono cambiate. Intanto che l'uomo è un notabile della città senese, è uno molto conosciuto, molto influente, e poi soprattutto che gli sguardi della polizia cominciano a essere torvi nei suoi confronti. Lei perché l'ha toccato, lei perché ha la macchina ammaccata. Insomma, in un attimo Michele Grassadonia si trova catapultato dall'altra parte del banco degli imputati. Si trova a essere lui sostanzialmente il sospettato numero uno di non dire la verità, di non voler coprire quello che è successo, insomma il sospettato di aver investito questo notabile e di non volerlo dire, finché poi chiaramente questo notabile ha la peggio, diciamo così, e la storia diventa ancora più cupa, coinvolgendo dentro una spirale incredibile anche la sua famiglia, la sua condizione di vita, insomma una sorta di discesa agli inferi del piccolo uomo di fronte alla grande e onnipotente macchina della giustizia. Ci dica innanzitutto come si chiama. Suo nome? Michele Grassadonia. Ha tante piccole manie lei, eh? Lei sta entrando nel merito di come sono fatto. Che fa, mi controlla? Guarda, così ci porti tutti all'esasperazione. Le regole sono regole. Lei cosa ha fatto? Niente. E allora? Che vergogna. Parlavano di te in televisione. Ma lei come faceva a sapere che era un incidente? C'era un corpo sbattuto per terra, mi pare. 220. Cerchi di formulare meglio le sue affermazioni. La sua parola qui diventa un atto. E che c'è venuto a fare qua a Siena? È la città ideale. Ma chi c'ha sta Siena più di Palermo? E allora, questo era un po' il clima del film. Un esordio riuscito, con qualche ingenuità, con qualche dialogo magari un po' troppo artefatto, però ben interpretato da Luigi Locascio, che riesce a calarsi perfettamente nel ruolo di questa persona che voleva fare un atto civico e che invece si è trovata schiacciata dal peso della macchina della giustizia. Dicevamo, sì, il rapporto fra uomo e giustizia, ma anche la ricerca della verità. Che cos'è la verità? È quella che vediamo, è quella che interpretiamo personalmente, quella che gli altri vogliono farci vedere. Il clima noir, le tinte fosche, questo spirito kafkiano, come dicevamo prima, sicuramente aiutano a entrare in un film che però non ha mai battute d'arresto. Hai sempre voglia di vedere cosa succede nella scena dopo, e questo è sicuramente un grande pregio. Ne abbiamo parlato con Luigi Locascio. Il tentativo è di sentirsi liberi di fare quello che veramente sta a cuore, no? Quindi, diciamo, il discorso del mercato oppure di ciò che si aspetta il pubblico, magari può venire in un momento in cui, che so, di stanca della propria, no? della propria storia di regista, allora per riacquistare un certo credito, così allora si prova a fare un'opera magari più popolare, non so come dire, oppure che hai già i numeri, no? La ricetta per avere successo. Io di questo non mi sono preoccupato, mi sono preoccupato veramente di qualcosa che mi appassionava. In questo senso non ho scelto il soggetto, ma è proprio quello che è venuto ha una singolarità, diciamo, specifica, fatta di gusto, immaginazione, desiderio, piacere anche di spettatore, che sono io, e si vede che questo è il mondo che mi interessa di più raccontare, che è quello che ha a che fare anche sicuramente con Kafka, anche se, diciamo, visto che avere Kafka come modello rischia di essere sconfitti in partenza, quindi la presenza di Kafka è legata alla mia passione di lettore, al fatto di aver lavorato su Kafka a teatro, perché ho fatto un testo tratto da uno degli ultimi racconti. Quindi è, diciamo, un mondo delle atmosfere che mi piacciono molto e che probabilmente, come dire, ormai essendo diventate così familiari, escono fuori anche se io non voglio, involontariamente, implicitamente, ecco. Ecco, però questa storia di quest'uomo che cerca di fare un gesto civico e si trova scaraventato dall'altra parte del banco degli imputati, come nasce? Perché appunto, diciamo, appunto tra le passioni oltre Kafka e le presenze, secondo me c'è anche un po' il lavoro che ho fatto sulla tragedia greca, e pur essendo una cosa ambientata nel contemporaneo, diciamo, il meccanismo dell'uomo di certezze, l'uomo che pensa di stare dalla parte della ragione assoluta, che, diciamo, ha perso la capacità di confrontarsi con gli altri, perché pur, come dire, essendo animato da un ideale condivisibile, assolutamente condivisibile, però è animato da certezze che lo hanno già, anche prima proprio del momento traumatico del film, l'hanno già isolato, l'hanno messo in una condizione appunto di margine rispetto agli altri. Ecco che improvvisamente, diciamo, tutte queste certezze crollano. È quello che fa il nostro personaggio, cioè cerca di dimostrare la propria verità. Tu parlavi prima appunto di qualcosa che ha a che fare con qualcosa di più metafisico che ha a che fare con l'essere. Io credo che, esatto, quando ci sono esperienze del tipo di quelle che prova il nostro personaggio, non si parla più del fatto di essere compresi, non siamo più nel luogo soltanto della coscienza o dell'identità o del carattere, ma sprofondiamo proprio nel campo dell'essere. Ecco, quindi mi sembra che tu hai colto un lato che mi sta molto a cuore nel film. Ecco, però c'è anche un lato, diciamo, di lettura più superficiale, se vuoi, più primaria, che è quello che, insomma, a volte occuparsi del bene comune potrebbe essere controproducente. Cioè c'è un po' il rischio che si percepisca questa cosa. Il film racconta anche il fatto che siamo incapaci di accettare che si possano fare gesti di un certo tipo, e visto che entriamo poi in una condizione, in un ambito che è quello giudiziario, ciò che è inverosimile, diciamo, viene subito confinato dalla nostra mente nell'impossibile. La difficoltà del nostro protagonista di rimontare da questa condizione, da questa caduta, da questa condizione di incubo in cui è sprofondato, nasce proprio da questo. La sua esperienza sembra impossibile all'occhio dell'altro. Però se dovessi individuare forse il tema portante, è quello della ricerca della verità. Una verità che sia quella, la verità per tutti di un'indagine giudiziaria, che la verità personale, la verità del soggetto. La rosa purpurea. Si può avere nostalgia di un luogo dove non sei mai stato. Piangere un tempo mai vissuto. Hai ricordi prima dell'esodo planetario? Ricordare non è nostro compito. Giorno 1644, torre 49. Qui controllo missione. Come va questa bella mattinata? Qui Jack Harper. Sono pronto. Siete una squadra operativa? Siamo operativi. Sessant'anni fa la Terra è stata attaccata. Abbiamo vinto la guerra ma perso il pianeta. L'umanità ha dovuto lasciare la Terra e dimenticare cosa significasse chiamare un luogo casa. Ci sono resti dell'esercito scavenger in superficie. Il mio compito è sorvegliare e gestire i droni. Siamo gli spazzini. 166 è di nuovo online. E allora queste parole, questa situazione raccontano un po' l'incipit di Oblivion, il film di Joseph Kosinski con Tom Cruise, Morgan Freeman e poi sul fronte femminile Olga Kurylenko, soprattutto, che è un po' il colossal di questa settimana. È sicuramente un film molto atteso, tratto da una graphic novel, che racconta per l'ennesima volta, non c'è niente di nuovo ovviamente, il mondo del futuro, una terra del futuro resa disabitabile, chiamiamola così, sicuramente disabitata o semidisabitata dalla voracità dell'uomo, dell'umanità, un tentativo di invasione aliena respinto, e come avete sentito nella clip, abbiamo vinto la guerra ma abbiamo perso il pianeta. Il pianeta si è inaridito, le turbine aspirano l'acqua dei mari per creare energia pulita per il nuovo luogo, il nuovo pianeta, la nuova stazione dove stanno gli umani. Su questa terra, così come la conosciamo, sono rimasti alcune guardie e ci raccontano proprio la storia di questa guardia, Jack Harper, Tom Cruise appunto, che vive con una bellissima compagna in questa sorta di casa galleggiante nello spazio, con tanto di piscina in resina trasparente nella quale sarebbe molto bello fare un bagno a qualche centinaio di metri di altezza, e dalla quale con la sua piccola astronave va a controllare, a pattugliare il livello del suolo, dove ci sono dei resistenti che sono attribuiti appunto alla cosiddetta entità aliena che aveva invaso la Terra, dei resistenti che si chiamano scavengers, che stanno cercando di prendersi ancora qualche fetta di pianeta, ma in realtà grazie all'operazione, all'attento controllo di queste guardie e della torre che li comanda da lontano, questo non avviene. Tutto cambia perché la verità non è mai quella che vediamo al primo colpo, come ci diceva anche Luigi Locascio. Tutto cambia nel momento in cui c'è una sorta di sogno, una sorta di sogno ricorrente, di memoria ricorrente che illumina il presente di Jack Harper. Una donna vista più volte nella New York contemporanea a noi, in questa New York qua, sull'Empire State Building, questa immagine in bianco e nero che continua a imperversare nella mente, nella memoria di Jack Harper. Un giorno sul pianeta Terra cade una navicella con alcuni corpi crioconservati, cioè congelati, e uno di questi volti, quando si apre questa sorta di sarcofago che li contiene, è proprio quello di questa donna. E lì parte una sorta di Total Recall per Jack Harper, che capirà da dove viene, chi è e come potrà uscire da questa situazione. Questo è un po' il plot, diciamo, quello che possiamo raccontarvi, poi lo sviluppo ve lo vedrete voi al cinema, di questo Oblivion. Ho avuto la fortuna di vederlo all'IMAX, quindi con uno schermo grande come una piazza, diciamo così, ed è sotto il profilo visivo sicuramente molto, molto imponente. Anche con qualche quarto di interesse qua e là nella descrizione di questa Terra del futuro, di queste stazioni galleggianti nello spazio, nella solitudine che esprime il film, con queste guardie praticamente sole a guardare la Terra da molto lontano, con queste trivelle inquietanti che aspirano l'acqua per farla diventare energia pulita. Certo, è un film che sostanzialmente saccheggia il passato e anche un po' il presente di questo tipo di fantascienza. C'è dentro l'immaginario del pianeta delle scimmie con New York semisommersa dalla guerra, ricorderete la Statua della Libertà che emergeva a mezzo busto dalla spiaggia. Ecco, qui c'è l'Empire State Building, c'è lo stadio degli Yankees, ci sono tante situazioni, anzi non degli Yankees perché è uno stato di football americano in realtà, insomma ci sono tante situazioni da post-apocalisse. C'è molto anche del recentissimo Host, tanto per dire, anche qui una sorta di gang partigiana che sotto mentite spoglie cerca di opporsi agli invasori. C'è tanto di Mad Max, del cinema che raccontava la Terra dopo un disastro che l'avrebbe distrutta. Insomma, non è che si faccia un grosso sforzo nell'immaginare una fantascienza nuova, né che Tom Cruise faccia molto di più di quello che abbiamo già visto nei suoi ruoli d'azione. Complessivamente però, sotto il profilo spettacolare, un film che tiene e che potrebbe, come dire, sicuramente piacere a un pubblico molto appassionato di questo genere. A proposito, andiamolo a sentire Tom Cruise raccontarci un po' come è stato lavorare a questo film. Credo che il pubblico vedrà questo film come il trionfo dello spirito umano. Mostra la tipica ingenuità degli uomini nei confronti degli elementi che gli sono contro. La cosa bella della fantascienza è che facciamo vedere un mondo a un pubblico che non l'ha mai visto. Qualcosa di molto bello, un viaggio davvero piacevole per l'uomo. Allora, questo era Tom Cruise. Noi cominciamo a giocare, come sempre, con la prima traccia del film misterioso di oggi. Sai, potresti restare qui a vivere nel castello. Avresti un'ala tutta per te, nessuno si lamenterebbe più del tuo alitaccio né ti tratterebbe male. Saresti felice. Che indizione, subito così generosissimi oggi con il nostro game. Di che film si tratta? Il vostro indirizzo, come sempre, per aiutarci a velocizzare le operazioni di spedizione, la rosa purpurea, @radio24.it, è il nostro indirizzo, l'unico modo per partecipare al nostro game, di cui più tardi ascolteremo un paio di tracce. Salutiamo Boris Sollazzo che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ascolta, non ti chiedo se ti è piaciuto Oblivion perché mi hai già detto che ti sembra un bignami della fantascienza, ma i soldoni alla fine è quello che abbiamo detto anche noi. Invece ti chiedo se ti è piaciuto L'ipnotista, temo ancora meno, ma prima sentiamo questa clip. Senti la mia mano, so che mi senti. Non hai assolutamente niente da temere. Possiamo fermarci quando vuoi. Sei al mare, sdraiato su uno scoglio. Stai bene, è caldo. Ora ci tuffiamo dallo scoglio e andiamo sott'acqua. Conterò alla rovescia partendo da 5 e ad ogni numero scenderemo sempre più in profondità. un ispettore, un testimone importante in coma, il resto della sua famiglia sterminata tranne un'altra persona, la sorella, che rischia la stessa fine, la necessità impellente di interrogare questo testimone. Allora ci si affida all'ipnosi. Questo è un po' il senso, il plot proprio ai minimi termini dell'ipnotista, il film che segna il ritorno di Lasse Hallström in Svezia, in casa, diciamo così, dopo una lunghissima parentesi hollywoodiana, costellata sicuramente da successi, poi magari non da film del tutto memorabili, ma insomma, questo è Boris. Raccontaci un po', questo ipnotista mi sembra che non abbia convinto fino in fondo. Direi di no. Torna dopo un quarto di secolo da Hallström in casa e ho l'impressione che non ne sentissero troppo la mancanza. Anche se va detta subito una cosa, per chi ama le atmosfere da noir, da thriller scandinavo, questo film comunque fa il suo, cioè sicuramente può piacere, può appassionare. Di sicuro però non tiene fede, uno, al libro di Kepler, che invece ha una tensione nervosa e narrativa molto forte. E due, mantiene una monotonia e anche dei momenti piccoli di umorismo involontario che forse normalizzano la storia abbastanza improbabile, cioè appunto tra ipnosi e la ricerca di una verità che negli ultimi 10 minuti si rovescia un'altra volta rispetto a quello che ci aspettiamo, non percorre proprio un percorso lineare e facilissimo da seguire. È un film secondo me sottotono, nel senso che ha anche dei pregi, gli attori non sono male, tutta la parte iniziale secondo me è abbastanza forte, soprattutto nel momento in cui l'ipnotista resiste al proprio superpotere, diciamo, no? in un modo quasi marveliano, lo rifiuta perché ha grandi poteri, corrispondono grandi responsabilità. Meno forte nel dipanarsi della trama, diciamo più d'azione e più di genere. Non si può dire che è un film brutto, però onestamente non si può dire neanche il contrario. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, abbiamo detto 5 film italiani in sala questa settimana. Abbiamo già parlato della Città Ideale. Vi voglio segnalare anche il ritorno di Papi Corsicato con Il Volto di un'altra, con Laura Chiatti e Alessandro Preziosi. Voglio segnalare anche Tutto parla di te di Alina Marazzi con Charlotte Rampling e Valerio Binasco. Insomma, sono film, poi riusciti, meno riusciti, questo lo giudicherete voi, sicuramente importanti in una settimana, come abbiamo detto prima, troppo piena di cinema italiano per non farsi concorrenza, anche se a volte sono generi e pubblici diversi, però insomma 5 in una settimana forse sono davvero un po' troppi. Uno di questi che potrebbe avere chance sicuramente di box office, poi staremo a vedere cosa succederà lunedì, con un personaggio molto popolare come Enrico Brignano protagonista, il film è di Andrea Zaccariello, si intitola Ci vediamo domani, che è un saluto, no? Vediamo una persona, ci vediamo domani. In realtà in questo caso diventa un incubo, perché questa è la storia di un imprenditore, di un piccolo imprenditore alla ricerca di una idea che gli possa cambiare la vita dopo un matrimonio fallito, un licenziamento, eccetera eccetera. Dice: ma cosa posso fare? E un giorno al bar sente un paio di personaggi che cercano di convincere il barista a comprare carni, diciamo così, alternative, e da qui nasce l'idea. Se no sa cosa fa? Unisce la cucina tradizionale romana, per esempio dei primi, con questa variante, non lo so, fettuccine al ragù di ippopotamo. Scusate, ma che state a dire? Cioè, amatriciana di coccodrillo, ma che vi dice c'è che uno mangia e sente. Senta, guardi, il punto è questo. In tempi di crisi la gente fa solo due cose, mangia e muore. Quindi se vuole fare i soldi, o cucina, però qualcosa di nuovo, no? Non le stiamo proponendo noi. Oppure apre le pompe funebri, che le devo dire? Ecco, in quel momento il nostro protagonista è lì nel bar, sente questa cosa, apre le pompe funebri e si ricorda di un articolo letto sul giornale di un paesino della Puglia nella quale non muore praticamente più nessuno. Sono oltre 8 agenari, stanno benissimo e si dice, beh, 1+1, in un posto così prima o poi qualcosa dovrà succedere, vado ad aprire un'impresa di pompe funebri. Le cose non si riveleranno così facili perché una volta arrivato lì sarà il DNA, sarà l'aria buona, sarà la cucina pugliese, la gente continua a non morire. Buongiorno signora, buongiorno, mi dica, Volevo solo un'informazione. Guardi, le dico subito che tutto dipende dal tipo di scelta, va bene? Sì. Dalla scelta della bara a quella dei fiori. Mm? Ma voi la fate la crematura? La cremazione? No, non la facciamo, non c'è spazio. Dove la brucio io a lei? Non... E poi prenderebbe fuoco tutto, no, no, non si può. Poi ci vuole un forno adatto, io ho quello a microonde, non si può fare. Però nonostante la cremazione c'è sempre bisogno di una bara, di una lapide, no? Guardi che non è per me. E perché? Per mia madre. Hai fatto? Sì, mamma, aspetta, arrivo subito. E sta ancora bene mia madre, solo che ha 102 anni e io ogni tanto ci penso. Vabbè, a me il plot fa ridere, anche se non è del tutto nuovo. Qualche anno fa Nico Cirasola a Venezia aveva portato un documentario sulla storia, quella vera, sì, di un paesino della Puglia dove il custode di un cimitero si lamentava perché da quando aveva preso in mano lui con grande professionalità la guida del cimitero non moriva più nessuno. Stavolta è messa in salsa fiction, tra l'altro con un paio di attori importanti anche come Bart Young e Francesca Inaudi. Boris, risultato compiuto, a me sembra semplicemente di vedere a volte un po' troppo di Brignano, cioè un po' troppo di one man show, forse serviva essere un po' più a servizio della trama. Assolutamente d'accordo, c'era anche Pippo Mezzapesa che aveva raccontato una storia del genere in un bel documentario, insomma la storia degli anziani che non muoiono mai e di qualcuno che ne subisce le conseguenze Non è assolutamente nuova, come dicevi. C'è anche uno sforzo, diciamo, di scrittura, perché c'è da dire che da noi non siamo molto abituati a questo tipo di humor più inglese, che scherza sulla morte, che cerca anche la battuta più cinica. Sono d'accordissimo con te sul fatto dell'eccessiva presenza di Enrico Brignano. Enrico Brignano comincia a subire la maledizione di molti attori teatrali, di molti eroi del palco che riescono magari a tenere per 3 ore migliaia di persone in un teatro, in uno stadio, in un palatenda, ma che quando arrivano al cinema perdono questo carisma, perdono questa magia. Finora non era riuscito a rimanere indimenticabile in nessuno dei film che aveva interpretato, che erano soprattutto commedie corali. Questa volta gli hanno cucito addosso un racconto in cui lui, bisogna dire, si impegna, però sembra spesso vedere un monologo delle Iene più che un film vero e proprio. Non si sente mai l'attore che entra all'interno del film e si mette al servizio del film, come diceva. Sembra sempre il film al servizio dell'attore. E questo provoca un distacco che spesso arriva anche un po' la noia, perché tutto sembra costruito, tutto sembra poco naturale, e in una commedia questo provoca poche risate. Risentendo il trailer devo dire che la parte migliore del film forse è proprio il trailer, che è montato e scritto come il film invece non è riuscito ad essere. Andiamo a sentirlo allora Enrico Brignano raccontare proprio il lavoro con tantissimi anziani sul set. Avere sul set tutti i giorni almeno una quarantina di anziani che hanno uno scopo, no? Perché con le pensioni minime che danno, insomma, lo scopo non ce ne sono poi tanti scopi, specialmente quando i nipoti o i figli magari si allontanano. Invece costoro venivano sul set cercando di fare una cosa per la quale non sono nati per fare questo. Quindi si sono trovati a recitare in questo film, e devo dire, diretti egregiamente da Andrea Zaccariello, che è il regista, sono stati talmente bravi da essere alcune volte anche commoventi. Per cui in una commedia dove c'è anche un piccolo segno di commozione, credo che sia operazione riuscita. Non c'è cosa migliore per l'animo umano avere parametri di questo tipo, che siano legati a così al sentimento, e quindi ecco, ben venga la risata, ma insomma quando poi la risata tocca il cuore è un bingo. E allora era Enrico Brignano, il film si intitola Ci vediamo domani. Boris, ti saluto, grazie per essere stato con noi. Diciamo ci vediamo sabato prossimo. Ecco, facciamo così che forse è meglio, ciao. Ciao. E allora giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Sai una cosa? Io vincerò una medaglia. Oh, sì che vincerò una medaglia. La medaglia più luccicosa di tutte le medaglie. La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, di che film si tratta, in palio per il sabato e per la domenica una copia del Blu-ray di questo film. Più tardi avremo l'ultima possibilità. Un altro film italiano di cui vogliamo parlarvi velocemente è il film di Renzo Martinelli, 11 settembre 1683. Avrete visto in giro fra televisioni e nelle città un grosso battage pubblicitario per questo film, che racconta un fatto storico importante, quello della mancata presa di Vienna, del tentativo di 300.000 soldati dell'esercito dell'impero ottomano che nel 1683 appunto tennero Vienna sotto assedio, comandato dal gran visir Kara Mustafa, al quale il sultano di Istanbul aveva affidato il vessillo e la missione: sconfiggere Vienna, prendere l'Europa, abbeverare i cavalli, con dizione di cosacca memoria, nelle fontane di piazza San Pietro. Renzo Martinelli racconta questo episodio, lo fa con il suo cinema un po' muscolare, diciamo così, dedito al grande spettacolo, anche se sugli effetti speciali ci sarebbe molto da dire. Comunque scene di massa, assalti a castelli, scene di corte, un film sicuramente grosso in termini produttivi. Anzi, il cinema italiano, ci si chiede come faccia a esprimere poi tutte queste energie per fare un cinema così grande, così ingombrante, verrebbe da dire, che non funziona, diciamo, fino in fondo. Non funziona fino in fondo perché da una parte la recitazione a volte è un po' stentorea, un po' troppo messa in scena, un po' troppo artificiale, e un po' anche perché i dialoghi sono tagliati un po' con la scure. Un film che va su un episodio fondamentale della storia con una tesi sostanzialmente già precostituita, cioè quella di raccontare come l'Occidente deve dire grazie a quell'episodio, alla resistenza che fecero i governanti indecisi dell'Europa, ma soprattutto il re polacco che arrivò con i suoi 40.000 uomini a cercare di sconfiggere questi 300.000, ci riuscì, e da lì l'Europa è rimasta l'Europa, l'Occidente è rimasto l'Occidente, sembra dire Renzo Martinelli, dipingendo però a tinte un pochino troppo grevi il bene e il male, dove l'Islam è famelico di possesso, di potere e di vittoria, e l'Occidente invece, tramite la figura centrale del film, quella di questo frate interpretato da Frank Murray Abraham, padre Daviano, ebbene, l'Occidente sa mediare, sa cercare, anche quando è il momento di combattere, è dalla parte giusta. Un film a tesi, era stato così forse anche per Barbarossa in passato, c'erano state molte polemiche, noi abbiamo voluto parlarne non tanto perché il film lo meriti, a mio modo di vedere personalmente il film non è per nulla riuscito, invece abbiamo voluto sentire Renzo Martinelli su una dichiarazione che sicuramente farà discutere, che però questa sì raccoglie un tema che è sul tavolo nel dibattito, quello del senso di appartenenza, dell'identità dell'Occidente. Sentiamo. Tu da una parte è un grande condottiero musulmano, Kara Mustafa, il quale è intimamente e profondamente convinto che Allah lo spinga quell'impresa. Kara Mustafa è convinto che il suo Dio lo spinga a conquistare l'Europa e a trasformare la Basilica di San Pietro in una moschea. Dall'altra parte c'è un grande sacerdote cristiano, Marco Daviano, che è intimamente e profondamente convinto che il suo Dio lo spinga a difendere l'Europa da quell'assalto. Entrambe le posizioni sono nel giusto. Dal proprio punto di vista entrambi hanno ragione. Quindi il senso del film è proprio una denuncia della insensatezza delle guerre di religione. Cioè ogni guerra è insensata, ma in modo particolare lo è la guerra di religione, perché non c'è possibilità di vittoria da una parte o dall'altra. Secondo te questo film come può arrivare al pubblico di oggi, allo spettatore di oggi? Guarda, deve arrivare come una riflessione sulla necessità di passare dallo scontro al confronto. 300 anni fa non c'era possibilità di confronto, si combatteva. Oggi si deve passare invece al confronto. Confronto non vuol dire una acquiescenza passiva e totale verso l'altra fede. Vuol dire un confronto su base paritetica, cioè io rispetto i tuoi valori, pretendo rispetto verso i miei valori. Questo è il senso del film, cioè confronto. Quindi bisogna che il mondo cristiano recuperi la propria identità e il proprio orgoglio di essere cristiano. Cioè tutti i valori del mondo cristiano sono valori condivisi da milioni di persone, vanno ribaditi con forza: la sacralità della vita, la parità fra uomo e donna, il rispetto della persona, l'amore per il prossimo, sono valori che arrivano dal cristianesimo e che sono profondamente radicati nella nostra cultura. Questi valori non appartengono a quella cultura, quindi noi dobbiamo difenderli, perché altrimenti saremo fagocitati. Questo è il destino, cioè la storia, purtroppo, per dirla con un grande storico francese, Fernand Braudel, viaggia per lunghe sinusoidi. Noi siamo all'interno di un'onda. Se non interviene nulla, noi saremo fagocitati, non oggi, ma fra 100 anni, fra 200 anni, perché siamo una cultura debole rispetto a quella musulmana. Quindi il senso del film è proprio questo, di recupero dei valori della propria identità. Cosa rappresenta per te questo passaggio al cinema? È evidente che un confronto con la sala italiana è un confronto impari, perché il cinema italiano è sostanzialmente commedia o film di evasione, o un cinema autoriale molto di nicchia. Un film così esce un po' dagli schemi, quindi è un tentativo, ci proviamo, andiamo in sala l'11 aprile e che Marco Deviano ci aiuti. Renzo Martinelli alla Rosa Purpurea. Prima di sentire come vanno le cose sulle strade, voglio dirvi che domenica pomeriggio a Milano ci sarà un appuntamento molto interessante in bicicletta organizzato da Ciclobi, che si intitola I cinema scomparsi di Milano. Dalle 14.45 ritrovo in piazzale Oberdan a Porta Venezia e poi un giro di un paio d'ore a cercare i luoghi, gli edifici che ospitavano le sale più importanti della città e che oggi sono scomparse, sono diventate altro. Sapete che siamo molto sensibili qui alla Rosa Purpurea al tema appunto di questi old cinema che sono stati poi rimpiazzati da negozi di mutande e cose varie. Allora, appuntamento alle 15 piazza 14.45 in piazza Oberdan. Si finirà al Cinema Manzoni con un'iniziativa molto sorprendente. Cinema Manzoni che, come sapete, è chiuso e che un comitato cerca di tenere vivo. E quindi, se volete informazioni, sul sito di Ciclobbi. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, Visioni Domestiche, il nostro angolo dedicato ai film da vedere in casa, cominciando dalla televisione, cominciando dalla grande proposta di grande cinema in chiaro in televisione per rifarsi un po' il passato, oppure rinverdirlo, con gli amici del settimanale Film TV. Giulio San Giorgio con noi, ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. C'è una bella maratona nei giorni dedicata a Paolo Sorrentino, che comincia con L'Uomo in Più, che è un film assolutamente da riscoprire. Sì, lunedì su Iris alle 15.45 L'Uomo in Più. Siamo a Napoli negli anni 80, Antonio Pisapia è un calciatore, uno stopper talentuoso, dalla carriera però agli sgoccioli, distrutta da un incidente di allenamento. Ma Antonio Pisapia, detto Tony, è anche un altro, un cantante amato e rispettato che inciampa nel troppo amore per la cocaina e le ragazzine. È l'esordio di Paolo Sorrentino con il suo cinema di maschere grottesche e iperreali che alla fine sanno dire più verità di un documentario di inchiesta sociologica. È una tragicommedia umana, nerissima perché non redime i suoi personaggi e con grandi interpretazioni d'attore. Iris, come dicevi, alla stessa ora, martedì e mercoledì, propone altri due film di Sorrentino, che sono altre due acidi lunari ritratti di uomini soli, e sono Le conseguenze dell'amore e L'amico di famiglia. E allora L'Uomo in Più è lunedì 15 aprile su Iris alle 15.45, nei giorni successivi anche altri film di Paolo Sorrentino. Invece TV 2000 ci regala una chicca dal passato come L'orgoglio degli Amberson. Esatto, ed è mercoledì alle 21.20 su TV 2000 L'orgoglio degli Amberson, storia economica, tragica e sentimentale di una famiglia che dal 1873 in America non sa adeguarsi al passaggio dall'assetto rurale del paese a quello industriale. È il secondo film di Orson Welles, che con il primo 24 anni, Quarto potere, aveva rivoltato come un calzino il cinema classico e anticipato di anni quello moderno. È un film che però è stato massacrato dalla casa di produzione, che ha ridotto i 131 minuti voluti da Welles a 88 e ha aggiunto un finale più roseo. Nonostante questo, il film rimane un capolavoro dove il regista continua a riflettere sulla storia, la realtà e la memoria, e dove continua a sperimentare nel linguaggio, sebbene in modo più sottile rispetto a Quarto potere, assolutamente da non perdere. E allora L'orgoglio degli Amberson, mercoledì 17 aprile, TV 2000 alle 21.20. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Franco, un saluto al radioascoltatore. Giochiamo ancora con l'ultima traccia del film misterioso. Lasciami andare! No, ora mi ascolti. Quando i giocatori ti vedranno glitchare sullo schermo, penseranno che il gioco sia difettoso. Non mi interessa! Sei un bugiardo! Beh, ti dovrebbe interessare, perché se il gioco va fuori servizio, tu affondi con tutta la nave, caramella! Levati dai piedi! La Rosa Purpurea @radio24.it. Di che film si tratta? Un Blu-ray per il sabato e uno per la domenica. Settimana prossima sveleremo l'arcano e lo facciamo adesso con il game di 7 giorni fa. Non potete liberarvi di me, non in eterno. Ci sarà sempre la paura. Va bene, con questo, finché un solo bambino crederà ancora, noi saremo con lui a combattere paura. E allora, si trattava delle 5 leggende. Era questo il film con il quale abbiamo giocato la settimana scorsa. Lo hanno indovinato Paolo Furini di Ficarolo, provincia di Rovigo, e Dina Malagamba di Bussero, provincia di Milano. Saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray delle 5 leggende di cui ci parla il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, da Universal Home Video questa doppia edizione in alta definizione, la prima bidimensionale e una esclusiva 3D ancora più divertente. Sono immagini con qualità veramente da riferimento, traccia per l'audio solo Dolby Digital, 6 canali per l'italiano, la stessa purtroppo del DVD, mentre almeno l'inglese si fregia della Dolby ad alta risoluzione, addirittura 8 canali. Sono extra disponibili solo per la versione 2D, giochi per i più piccoli, lo stile visivo del film, c'è un approfondimento sulla colonna sonora, il commento dei realizzatori e una sezione per imparare a disegnare i personaggi. Ricordo che il Blu-ray 3D purtroppo non contiene alcun supplemento. E questo allora è le 5 leggende, il game della scorsa settimana. Le proposte, invece, le novità in un video di questo weekend sono due film, diciamo così, che arrivano dal passato. Uno da un passato un po' più remoto. Ormai stiamo parlando del capolavoro di Roman Polanski, Il coltello nell'acqua. Sei un assassino! Zitta, ho detto! Ormai hai paura e stai tremando come una foglia e non cerchi neanche di salvare la faccia. Vergognati! Buono solo a darti delle arie, altro che duro, commediante! Ecco quello che sei, un isterico! Sono tua moglie! Se non fosse per me saresti una prostituta! Ma sei un vigliacco! Ti odio! Ah sì? E allora buttati e vattene! Meriteresti che lo facessi! Nessuno ti trattiene! Certo! Visto che tu non hai coraggio di farlo! Decisi a passare il fine settimana in barca, un giornalista sportivo e sua moglie portano con loro un giovane autostoppista poi invitato a unirsi alla gita. Nel giro di poche ore la cordialità si trasforma in debordante acredine. All'interno di uno spazio sempre più soffocante, quello della barca, i due uomini entrano in conflitto per catturare l'attenzione della donna. Opera prima di Polanski, angosciante, claustrofobica, anticipatrice delle opere capolavoro di là da venire, nonostante una produzione che risale al 1962, il film è ora disponibile in alta definizione in Blu-ray da Pulp Video, con immagini in bianco e nero, di resa decisamente superiore al DVD. Meno bene il comparto audio, a malapena sufficienti le 2 tracce mono originali dell'epoca, critica purtroppo la nuova versione multicanale sempre in italiano, e il film presenta tra l'altro alcuni dialoghi in originale con sottotitoli e come extra una galleria fotografica. Un passato un po' meno remoto invece è quello di Willow di Ron Howard. E Laura Dunham ha scelto te come suo tutore. Me? Sì, tu le piaci, Willow. Ma non è tutto. E Laura Dunham sa che tu avrai il coraggio di aiutarci. Porta la mia bacchetta a Finn Reziel, la strega. Lei guiderà te ed Laura Dunham al regno di Tir Azlin, dove un re giusto e la sua regina la adotteranno. Contadino di un villaggio, il nano Willow, che sogna di diventare stregone, incrocia la sua esistenza con una infante neonata abbandonata sul greto di un fiume e in realtà principessa dotata di straordinari poteri in grado di sconfiggere una malvagia strega che ne ha eliminato la famiglia finché non si avveri la profezia. Con l'aiuto di un guerriero e improbabili amici, Willow affronterà incredibili peripezie affinché il male venga sconfitto. La divertente ed epica scorribanda nel fantasy da parte di Ron Howard risale al 1988, ora disponibile in alta definizione dalla 20th Century Fox Home Entertainment e Blu-ray per il 25esimo anniversario, con qualità superiore al DVD, un po' di grana evidente, c'è l'audio DTS, veramente di buona resa per l'italiano e addirittura DTS ad alta risoluzione per l'inglese. Come extra segnalo 3 approfondimenti sulla lavorazione, incluso un capitolo dedicato ai primi effetti in computer grafica, ci sono anche 13 minuti di scene tagliate. E allora grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora sulle note della nostra sigla noi andiamo a chiudere la nostra trasmissione ricordandovi la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e entrate nel nostro gruppone per essere informati tutta la settimana sulle novità al cinema e per dirci la vostra sui film che vedete. Potete anche scaricare la trasmissione in podcast. Qui mi resta che altro che ringraziare come sempre Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, Peter Bescapè che ci ha seguito in regia, e darvi appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisti.